24 mattino. L'Italia si desta. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Buongiorno, ben alzati da Gianfranco Fabi, nel giorno in cui tutti i giornali ricordano Margaret Thatcher. Non potevamo che iniziare rendendo omaggio ai Beatles, a questo complesso che ha segnato gli anni precedenti la Thatcher, gli anni 70, che comunque ha un po' svegliato l'Inghilterra, un po' svegliato la generazione giovanile di quegli anni, e quindi un omaggio ai Beatles per iniziare il nostro buongiorno. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why? Tra l'altro proprio i Beatles con George Harrison scrissero negli anni, alla fine degli anni 70, Taxman, una canzone che protestava contro l'eccesso di tasse, e l'eccesso di tasse fu proprio uno dei punti di con cui Margaret Thatcher posò, appunto, fece la propria campagna elettorale e motivò i propri passi al governo inglese. Ma di Margaret Thatcher parleremo con Virgilio D'Astoli, buongiorno. Buongiorno. Virgilio D'Astoli, a lungo al vertice degli uffici di Bruxelles della Commissione Europea, adesso presidente del Movimento Europeo, molto impegnato sul fronte appunto dell'Europa. E Roberto Santaniello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Direttore dei servizi di relazioni internazionali del Comune di Milano, ma anche egli impegnato sul fronte europeo, e tra l'altro hanno scritto insieme un libro che si intitola Santaniello? C'eravamo tanto amati. Sì, con un sottotitolo secondo me significativo. Italia, Europa, e poi con un bel punto interrogativo. E poi, sì, è un momento un po' complicato per l'Europa, è un po' passato l'amore verso l'Europa, aveva contraddistinto i primi anni, adesso l'Europa è un po' un capro espiatorio di quanto sta avvenendo, della grande crisi che sta appunto coinvolgendo tutti i paesi, non solo quelli europei, non solo quelli dell'euro. Abbiamo parlato ieri per esempio con Roberto Bertinetti della realtà della Gran Bretagna, una Gran Bretagna che, anche se non ha l'euro, comunque ha la crisi economica così come gli altri paesi. Ma Virgilio D'Astoli, come mai questo C'eravamo tanto amati? Chi l'ha scelto il titolo tra lei e Santaniello? No, abbiamo scelto insieme, abbiamo pensato che fosse un titolo significativo sui rapporti tra l'Italia e l'Europa, soprattutto, ma non soltanto l'Italia e l'Europa, però evidentemente era necessario anche mettere il sottotitolo Italia, Europa, e poi noi diamo la nostra ricetta sul poi. Possiamo magari anticiparla un attimo, D'Astoli? Ma intanto noi riteniamo che è necessario non soltanto lavorare per un'altra Europa, ma anche un'altra Italia. Infatti noi riflettiamo anche su quale Italia conviene all'Europa. Certamente non conviene all'Europa un'Italia come quella che si sta manifestando in queste settimane. E del resto noi siamo anche convinti che un'Italia diversa è anche importante per rilanciare il processo di integrazione europea. E soprattutto è importante per l'Italia, perché il problema per l'Italia non è solo quello di essere in Europa, ma essere in Europa per essere un paese moderno, un paese in crescita, un paese dinamico, un paese che sappia affrontare e risolvere i problemi, e questo non è certamente facile. Io ricordo ai nostri ascoltatori 349-238-6666 per le vostre telefonate. Vi ricordo anche che più tardi parleremo di uno dei temi forti forti, dei temi anche drammatici di questo periodo, che è quello della disoccupazione, quello del lavoro. Ne parleremo dalle 8:15 in poi e potrete anche chiamare a quel momento il numero verde 800 24 00 24 per le vostre, appunto, per i vostri giudizi, per le vostre critiche, per i vostri interrogativi. Avremo come ospite Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, con cui introdurremo questo tema, un tema complesso, un tema difficile, ma dalle 7:15 alle 8 poi ci sarà la rassegna stampa. Oggi i giornali hanno largo spazio, appunto, a ricordare la Lady di Ferro che cambiò l'Inghilterra, che cambiò un po' anche il senso e la politica all'interno della realtà, appunto, occidentale, ma anche altri temi sui giornali. Ma parliamo un attimo della Thatcher, di questa Lady di Ferro. In fondo è una delle ultime occasioni che abbiamo per parlarne. Oggi sui giornali ci sono, appunto, anche dei giudizi contraddittori abbastanza pesanti, per esempio quello di Romano Prodi sul Sole 24 Ore, che dice che forse, ecco, la Thatcher ha un po' esagerato sul fronte della sua politica, e hanno esagerato anche chi l'ha seguita poi nell'attuare una politica eccessiva sul fronte della privatizzazione, sul fronte del taglio degli investimenti sociali, sul fronte di una politica che ha ridotto lo Stato e che ha ridotto anche la sensazione della necessità di uno Stato efficiente. Cosa ne pensa Roberto Santaniello? Beh, effettivamente le ricette della Lady di Ferro sono state molto forti nell'epoca data, cioè negli anni in cui lei è andata al potere, e quindi naturalmente diciamo il modo in cui ha agito sulla politica economica è stato effettivamente molto forte, e mi ricordo che il tema che veniva utilizzato era la formula che voleva che utilizzava era deregulation, cioè tutto ciò che poteva essere messo in atto per eliminare diciamo tutto ciò che poteva avere odore di dirigismo, di statalismo. Questo è stato un po' il suo approccio. E nel palcoscenico europeo, deregulation ha avuto invece un termine molto meno forte, ma significativo, perché, diciamo, degli aspetti positivi dell'Europa alla Francia bisogna, per esempio, dire che ha lavorato in favore del mercato interno, certo con le sue, il mercato europeo, cioè la dimensione europea dei mercati, cioè sempre con un'ottica britannica continentale, come direbbero loro, ma in questo senso, per esempio, la Thatcher è stata in qualche modo molto molto egoista sul bilancio comunitario. Vi ricordate la frase I want my money back, cioè da quel momento l'Inghilterra riceve di ritorno un assegno per il fatto che contribuisce, tra virgolette, troppo al bilancio comunitario. Certo, se si pensa alle scaramucce, o più le scaramucce che si fanno adesso i capi di Stato e di Governo per limitare il bilancio comunitario, insomma potremmo anche dire provocativamente che il fantasma della Thatcher in qualche modo sfiora tutta l'Europa ancora oggi. Ecco, il fantasma della Thatcher sembra, appunto, un'immagine che un po' che condiziona anche in negativo, però in fondo l'Europa ha avuto anche un certo contenimento, una certa strada dalla Thatcher. Virgilio D'Astoli, come pensa che il fatto che l'Inghilterra, la Gran Bretagna abbia avuto questo atteggiamento sull'Europa abbia in fondo condizionato anche il cammino dell'Europa, ma condizionato in positivo o in negativo? Ma intanto io vorrei ricordare che la signora Thatcher due volte è stata sconfitta proprio sui temi dell'Europa, quindi questo ci deve essere in qualche modo di insegnamento per capire che quando c'è la volontà politica di andare avanti, anche un'opposizione rigida come quella della signora Thatcher può essere sconfitta. Del resto, siccome si chiamava la Lady di Ferro, il ferro qualche volta si origine anche. La Lady di Thatcher è stata la Lady di Ferro è stata sconfitta a Milano nel 1985, quando si è deciso di riformare i trattati di Roma, è stata sconfitta una seconda volta quando, tornando in patria, le hanno costretto a gettare la spugna e abbandonare il posto di primo ministro. Certo, lei ha ragione, oggi molti capi di Stato e di Governo si ispirano in qualche modo all'atteggiamento egoista della signora Thatcher, quindi il suo fantasma plasma in qualche modo ancora oggi una influenza purtroppo negativa sul modo di lavorare e di muoversi in Europa. Ecco, sì, il fatto che la Thatcher abbia avuto appunto la sua prima sconfitta al vertice di Milano, lo ricorda per esempio Sergio Romano nell'editoriale del Corriere della Sera di oggi, in cui dice: al vertice europeo di Milano la sua tattica euroscettica non riuscì a prevalere sul fronte congiunto di Bettino Craxi, Helmut Kohl e François Mitterrand. La poll tax, una tassa comunale introdotta verso la fine del suo terzo mandato, provocò poi violenze e proteste di piazza, e qui appunto Sergio Romano ricorda i punti difficili, ma li vedremo tra un attimo. Lasciamo ancora un piccolo spazio ai Beatles, che come giustamente sottolinea un ascoltatore con un SMS, hanno segnato gli anni 60, poi negli anni 70 si sono sciolti, ma hanno segnato la musica anche più tardi, e continuano a segnare, hanno cambiato anche loro il corso della musica e dell'impegno musicale verso la società. Mattino. Proprio non c'è niente da fare, proprio l'uomo è stupido. Sono stato 25 anni senza votare, adesso ho votato Grillo e adesso sto altri 25 anni senza votare, finché non arriverà il Padre Eterno, perché l'uomo è stupido. Sono arrivato dal Marocco 23 anni fa con un pantalone e una camicia. Adesso col terremoto che ha colpito l'Emilia, che ho perso la casa, e la crisi mondiale e il governo che non fa nulla per noi, che torna in Marocco con i mutandi. Solo con i mutandi. Ti saluto. Allora, caro Renzi, ma tu il PD lo vuoi sfasciare, non lo volevi rottamare? Perché questo accordo con il PDL è una pazzia, un suicidio. Ma poi hai visto che gente c'è di là, altro che i nostri, che almeno i nostri, vabbè, erano da rottamare, ma quelli sono proprio neanche da riciclare proprio. Ciao Renzi. Bersani deve andare via, deve lasciare il posto a Renzi. Bersani deve andare via, basta, basta. Renzi, Berlusconi e Grillo e basta. E finisce lì, e sveghiamoci, addormentati. Renzi deve andare al governo. Grazie. Buongiorno, e volevo dirti due cose. Uno, che i debiti della pubblica amministrazione ogni giorno aumentano come gli esodati, secondo me c'è sotto qualcosa. E un'altra cosa è che tutti coloro che lavorano per la pubblica amministrazione, aziende o piccoli imprenditori, offrono dei prodotti, dei servizi a prezzi doppi, tripli rispetto a quelli praticati ai privati stessi. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questo nostro Stato e in questa pubblica amministrazione. C'è la tendenza ad imbrogliare. Chiunque ha la possibilità imbroglia. Grazie. I vostri messaggi alla nostra segreteria telefonica 02 46 52 4492, potete chiamare tutto il giorno e poi sentirli la mattina dopo. E ancora saluto Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo, e Roberto Santaniello, direttore del settore relazioni internazionali del Comune di Milano. Hanno scritto insieme il libro C'eravamo tanto amati, Italia, Europa e noi. Ricordo agli ascoltatori 349-238-6666 per i vostri messaggi. Allora, questo libro, torniamo un po' a questo libro, edito da Egea, costa 15 euro e si dice a un certo punto: l'evaporazione del consenso popolare e la sfiducia dei mercati costringono in qualche modo a riaprire il cantiere Europa, ma gli architetti sono incerti sulla ristruzione da fare, sulle ditte da coinvolgere, sui tempi di consegna e anche sui futuri inquilini. Un po' troppe incertezze, Virgilio D'Astoli. Le certezze ci sono, però la storia ci ha dimostrato che quando si ha la volontà di andare avanti si possono fare dei passi sostanziali. Noi appunto, dopo aver fatto queste domande, aver posto queste incertezze, diamo in qualche modo la nostra ricetta, e abbiamo due scadenze importanti da tenere in considerazione. La prima sono le elezioni europee del 25 maggio del 2014. Queste elezioni europee devono essere l'occasione importante di rilanciare il progetto di un'Europa diversa rispetto all'Europa attuale. La seconda scadenza è il 1 luglio del 2014, quando l'Italia avrà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. E noi speriamo e diamo anche una serie di indicazioni che l'Italia arrivi a questa scadenza preparata e quindi che ci siano quelle riforme interne che consentano all'Italia di essere non soltanto credibile ma anche di essere in qualche modo dinamica e propositiva all'interno dell'Unione Europea. E come è vista adesso l'Italia da Bruxelles, magari non tanto nelle aule ufficiali o nei convegni ufficiali, ma nei corridoi, ai bar dove si incontrano i funzionari e i responsabili dell'Europa? Cosa si dice sull'Italia? Beh, intanto dal novembre del 2011 l'arrivo del governo Monti ha cambiato in maniera direi abbastanza significativa i dati della nostra presenza nelle istituzioni europee. C'era stato un downgrading non soltanto economico ma anche politico considerevole. Detto questo, non basta portare avanti, come è dimostrato, una politica di rigore e di austerità finanziaria, serve altro. Ci sono alcuni governi europei che effettivamente sono stati eletti sulla base di un'indicazione precisa dei cittadini, penso al governo francese ma anche penso alle ultime elezioni a Malta in cui hanno vinto i laburisti. Certo, ci vuole un governo che coniughi il risanamento finanziario ma anche con una politica di rilancio e di crescita, e per questa ragione noi riteniamo che il prossimo governo italiano debba essere capace appunto di dare un segnale di discontinuità rispetto al passato. E questo ce lo augurano probabilmente tutti, di dare un segnale di dinamismo, soprattutto di capacità di affrontare i problemi, ma ci manca addirittura il primo passo, ci manca addirittura un governo. Roberto Santaniello, allora questa Italia, come è vista invece, diciamo l'Europa dagli italiani, come mai c'è questa disaffezione? Che cosa si può fare per rilanciare un'Europa che può offrire tanto, che certamente ha tanti difetti, ma senza Europa probabilmente sarebbe peggio. Cercando di rispondere alla seconda domanda del nostro libro, non solamente quale Italia conviene all'Europa, ma quale Europa conviene all'Italia, e questo è il secondo aspetto su cui bisogna riflettere, che è un'Europa esattamente diversa da quella che stiamo vivendo e che la gente percepisce, cioè che percepisce, sottolineo. E quindi ci vuole un governo forte per imporre un'Europa diversa che sia... Ci vuole un governo democratico, ci vuole un sistema di governo che riesca, come diceva D'Astoli, a coniugare gli imperativi del finanziari con le necessità della crescita, perché cioè, è vero ed è giusto, peraltro, lo sottolineo, che non si poteva più crescere indebitandosi e quindi passando il peso di tutto ai giovani e alle future generazioni. E quindi questa cultura in qualche modo è diventata centrale nei governi nazionali. Però ci vuole molto di più, perché se non c'è la crescita, non ci sono politiche che dirigono la società europea verso dinamismo, una nuova gioventù, direi, è evidente che l'opinione pubblica percepisce l'Europa come qualcosa di negativo. E dobbiamo combattere contro questa percezione, dando appunto spazio però alla progettualità, alla capacità di costruire spazio anche ai giovani e dando fiducia ai giovani. Grazie a Roberto Santaniello, grazie a Virgilio D'Astoli di averci svegliato questa mattina riproponendo i problemi dell'Europa, che però sono i problemi anche nostri, del nostro futuro. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Ancora buongiorno da Gianfranco Fabi, qui questa settimana per lasciare a Alessandro Milan di fare le sue vacanze. Guardiamo adesso i giornali di oggi e poi dopo dalle 8:15 parleremo di occupazione, di disoccupazione, di lavoro. Ne parleremo con Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Per i vostri messaggi 349-238-6666 per le telefonate dalle 8:15 in poi all'800-2400-24. Come anticipato, i giornali danno ovviamente spazio alla morte di Margaret Thatcher, morta a 87 anni, scrive il Corriere della Sera, mito del liberismo mondiale, fu primo ministro dal 79 al 90. Questa storia è la conclusione del pezzo di Sergio Romano, se avremo tempo ne vedremo anche un'altra parte più tardi. Questa storia contiene per noi una doppia lezione. Ci insegna che le buone democrazie sanno dare spazio ai grandi riformatori e che sanno mandarli a casa quando diventano meno utili al paese. Ecco, è un bilancio molto sintetico ma molto efficace di Sergio Romano, sapere accogliere i grandi riformatori ma anche sapere porre dei limiti all'azione di questi riformatori. È in pratica quello che dice anche, pur con qualche vena critica in più, Romano Prodi sul Sole 24 Ore: ha cambiato il mondo e ha preparato la crisi globale, dice Romano Prodi. Oggi però non si può non notare come la matrice innovativa delle idee thatcheriane si sia poi scontrata con fasi applicative a dir poco drastiche che hanno finito con lo svuotare la carica di innovazione di quelle stesse politiche e hanno creato le condizioni per l'esplosione della più drammatica crisi finanziaria e ormai anche economica del dopoguerra. Oggi però, conclude Romano Prodi, diventa legittimo domandarsi se questi disastrosi risultati siano stati prodotti da lei o dalle sue idee o dai suoi interpreti un po' fessi. Romano Prodi sul Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che apre con le imprese non ce la fanno più, mobilitazione di tutte le aziende lombarde, siamo al codice rosso così moriamo. Ieri c'è stato un incontro delle aziende lombarde che hanno appunto elevato un nuovo grido, un grido di allarme sulla situazione, un grido verso un governo che non c'è e soprattutto una politica che non decide, scacco la crisi in cinque mosse, è il commento di Alberto Quadrio Curzio, lo vedremo più avanti. Ancora sul Corriere della Sera, Napolitano spinge per l'intesa, è un titolo che si ripercorre un po' su tutti i giornali. Il Corriere della Sera dice l'intesa, altri giornali dicono le intese, lo spruzzo di Napolitano, larghe intese coraggiose, il titolo del Messaggero. Napolitano invoca le larghe intese, è il titolo della Repubblica. E il Secolo XIX, Napolitano evoca le larghe intese nel 76, scelta coraggiosa, e Berlusconi vedrò Bersani, questo è il titolo della Secolo XIX, La Stampa, Napolitano, elogio delle larghe intese e critiche ai grillini. Berlusconi annuncia, incontrerò Bersani, il Colle contro i moralizzatori distruttivi. Ancora sulla Stampa, mentre Libero attacca il Partito Democratico, i poveracci del PD, farsa democratica, Bersani e i suoi vanno in piazza contro la povertà e perché non contro la morte, perdono tempo invece di fare l'unica cosa di cui c'è bisogno in governo, intanto i veri poveri si uccidono, è il titolo grande di Libero, che ha in prima pagina un disegno di Margaret Thatcher, la Lady di Ferro che servirebbe al l'Italia, è il commento di Maurizio Belpietro. E proprio sulle larghe intese, un altro tema legato appunto alla politica è quello dell'occupazione del Parlamento, che oggi parlamentari del Movimento 5 Stelle faranno in maniera un po' simbolica, fermandosi al lavoro anche dopo la fine dei lavori, per richiamare la appunto per richiamare la politica al fatto di far lavorare il Parlamento anche se non c'è un governo. Ecco, su questo fronte si sofferma il Corriere della Sera con un articolo di Michele Ainis che appunto sottolinea il fatto che il Parlamento potrebbe, anzi dovrebbe lavorare lo stesso nella situazione in cui è. Non si tratta, sì, certamente le commissioni in alcuni casi rispecchiano la necessità di equilibrare maggioranza e opposizione, ma è una prassi più che una logica costituzionale, una prassi dovuta al sistema bipolare su cui era fondata fondata l'Italia fino a poco tempo fa, adesso non si sa bene su cosa sia fondata, però comunque il sistema bipolare non c'è più, perché almeno sono tre più in parte un'altra piccola forza del 10%, però sono tre le forze che si confrontano in Parlamento, la destra e la sinistra, i grillini più il centro di Monti e Casini, e quindi il sistema bipolare non c'è praticamente più, e quindi anche la politica dovrebbe prendere atto di questo. E leggiamo un pezzo di questo articolo di Michele Ainis. Le commissioni, afferma, potrebbero comporsi fin da adesso. Né la Costituzione né i regolamenti d'assemblea fanno riferimento alla dialettica fra maggioranza e opposizione. E ancora Michele Ainis sul Corriere della Sera. L'unico criterio esplicito è il rispetto della proporzione fra i gruppi parlamentari. Sempre in teoria le Camere potrebbero quindi aprire da domani l'Officina delle Leggi. Con un governo tacitamente prorogato? E no, la Carta del 47 contempla la prorogazio soltanto in caso di guerra. Ma in Italia non c'è una guerra, o forse non c'è ancora. C'è invece un sistema che ci permette di scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento, i quali a loro volta scelgono i governi, sicché ogni esecutivo è legato da un cordone ombelicale ai cittadini, sia pure con una diretta investitura popolare. Quando il cordone si spezza, cada pure la legislazione del governo, e quella delle Camere se restano impotenti a generare un nuovo esecutivo. Morale, conclude Michele Ainis sul Corriere della Sera, datevi una mossa o verrete licenziati su due piedi. Non può farlo Napolitano, lo farà il suo successore, e nel frattempo l'esecutivo rimane in carica per gli affari correnti, già che nessuno Stato può mostrarsi acefalo, senza testa. È bene sapere tuttavia che l'ordinaria amministrazione comprende la straordinaria amministrazione, non è un bisticcio di parole. Se scoppiasse un terremoto, anche il governo privo di fiducia dovrebbe tamponare l'emergenza. Siccome la prima emergenza istituzionale è il cambiamento della legge elettorale, repetita iuvant, che sia il governo Monti a ripescare il Mattarellum per decreto. E questa la proposta un po' provocatoria di Michele Ainis sul Corriere della Sera, che dice il Parlamento può legiferare, ed ha ragione, può legiferare anche senza avere una controparte del governo, perché il Parlamento è sovrano, e anzi lo stesso Parlamento che deve dare la fiducia al governo, e quindi in questa prospettiva il Parlamento si dia una mossa, superi appunto le prassi precedenti, superi la logica precedente che voleva che il Parlamento aspettasse sempre di essere imbeccato dal governo per dover decidere, ma decida autonomamente, magari. E anche il governo, un governo che ha appunto poteri di ordinaria amministrazione, di fronte a un'emergenza come quella attuale, di fronte alla legge elettorale, faccia un decreto per cambiare la legge elettorale, per abrogare il Porcellum e tornare al Mattarellum. Questa è l'ipotesi di Michele Ainis, un'ipotesi ovviamente molto sul filo della costituzionalità, perché un decreto che abroghi la legge elettorale forse non è tanto nella logica costituzionale, ma questo fa parte del dibattito, e forse su questo è bene meditare. 24 mattino. Eccoci ancora con i giornali di oggi, guardiamo le prime pagine dei giornali. Avvenire, larghe intese, buona medicina, il Colle, moralizzatori fanatici e distruttivi, si farà l'incontro tra Berlusconi e Bersani, è un po' un titolo anche degli altri giornali. Avvenire mette, direi ovviamente, in prima pagina anche l'insediamento come vescovo di Roma, Francesco nel suo Laterano, Dio è paziente, ci aspetta sempre, e scrive: lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio, e l'invito del Papa nella sua prima messa celebrata nella sua cattedrale. Il vescovo di Roma ha scelto di insediarsi sulla cattedra romana della domenica in cui, per volere di Giovanni Paolo II, si celebra la Divina Misericordia, un tema molto caro al pontefice, che infatti ha sottolineato: lasciamoci afferrare dalla proposta di Dio, la sua è una carezza di amore. E l'immensa forza, il titolo dell'editoriale di Marina Corradi, che è dedicato proprio al Papa e alla sua paziente misericordia. Ecco, una pazienza ovviamente che richiama anche alla politica, se vogliamo mischiare il sacro col profano, però la politica fa venire più impazienza che pazienza, perché assomma appunto cose che rasentano la schizofrenia e la pazzia. Schizofrenia delle due piazze è il titolo del commento di Giovanni Sabatucci sul Messaggero. Ma che saggi, ci vorrebbero 10 pazzi, è il commento di Marcello Veneziani sul Giornale. Tra l'altro il Giornale ha con un titolo grande: l'ultima beffa beffa, premio a Equitalia se ci spreme di più. Gli agenti del fisco hanno dei bonus in base alle cartelle che emettono, follia dei sindacati, dovrebbero essere più alti. E in Sicilia, scrive ancora il giornale, Ingroia finisce a fare l'esattore per Crocetta. Ecco, questo commento, questo corsivo di Marcello Veneziani prende spunto dalla nomina dei 10 saggi da parte di Napolitano e dice che forse bisognava andare in un'altra direzione. Vi sussurro 10 antisaggi che hanno brillantemente bruciato la loro carriera politica o compromesso l'habitat in cui agivano: Casini, Fini, Di Pietro, Ingroia, Cino Pomicino, Veltroni, Rutelli, Lamalfa, Bertinotti. Il decimo lo lascio a voi, c'è l'imbarazzo della scelta. Per risanare la politica e i suoi sprechi sarebbe pure utile sentire il parere della Commissione delle pari importunità, sottolinea Marcello Veneziani, nominando Penati, Il Trotta, Bersito, Marrazzo, Lombardo, Tedesco, Fiorito, De Gregorio, Pecoraro Scagno. E lascio anche qui, scrive Marcello Veneziani, un posto vacante nella top ten per ripescare in altri 1000 meritevoli. Se volete dei tecnici, ce ne sono valanghe dal Monte dei Paschi in su. Il parere espresso dalle commissioni sarà vincolante per imboccare la via contraria. Questo criterio è antico, ma nel secolo scorso Karl Popper lo ha elevato a dignità scientifica. Anziché procedere per verifiche, procediamo per falsificazioni, cioè per errori e confutazioni. La teoria fu intuita da Machiavelli, che diceva: bisogna conoscere la via dell'inferno per evitarla. Ci vorrebbero 10 pazzi per rifondare l'Italia. Che ne dite? È all'altezza della situazione? Marcello Veneziani, con la sua solita arguzia sul Il Giornale in prima pagina. E dalla pazzia alla schizofrenia delle due piazze, il commento, anche questo molto incisivo, di Giovanni Sabatucci sul Messaggero, che si riferisce alle manifestazioni che nei prossimi giorni si svolgeranno e che sono state indette dai due principali gruppi politici, dalla destra, dal PDL e dal PD. Nei prossimi giorni, scrive Sabatucci, mentre la crisi politica si avvita sempre più su se stessa e mentre si sta per aprire il seggio elettorale da cui uscirà il nuovo capo dello Stato, i due importanti piazze italiane si terranno manifestazioni che già si prevedono molto premiate da un ampio concorso di popolo. L'aspetto inedito e anche un po' surreale della vicenda sta nel fatto che a chiamare a raccolta i loro seguaci per contestare non si sa bene chi e che cosa non saranno movimenti protestatari o rappresentanze di legittimi interessi, come sarebbe normale in tempo di crisi economica. Saranno invece i leader dei due maggiori partiti italiani e, scrive Giovanni Sabatucci, proprio quelli da cui prioritariamente spetterebbe il compito di condividere quanto più largamente possibile la scelta del Presidente della Repubblica e di lavorare sul serio per dare un governo al paese che ne ha un bisogno urgentissimo. Il compito, lo sappiamo, è reso proibitivo dai numeri del Parlamento appena uscito dalle urne, dove una maggioranza omogenea non c'è e non ci sono nemmeno le premesse per mettere assieme una qualsivoglia coalizione politica. Ma questo, sfortunatamente, è un dato di fatto che nessuna manifestazione può cambiare. E con i dati di fatto un buon politico dovrebbe comunque fare i conti anziché inseguire diversivi e cercare fughe in avanti. Non stupisce, continua Giovanni Sabatucci sul Messaggero, che a fare appello alla sua piazza sia Silvio Berlusconi, che da tempo ci ha abituato ad alternare le vesti del capopopolo a quelle dello statista, pensoso del bene del paese. E nemmeno meraviglia che un grande affabulatore come Nicky Vendola, in un'intervista apparsa su Repubblica, denunci il realismo, proprio così, il realismo di molti dirigenti della politica della sinistra in quanto ostacolo alla ricerca di soluzioni innovative, quali non è dato sapere. Forse l'avvio di un nuovo disperato tentativo di dialogo con Grillo, l'acquisizione caso per caso di qualche frammento scissionista del movimento. Non credo siano buone soluzioni e certo non sono innovative. E concludo questo articolo di Giovanni Sabatucci sul Messaggero. Più difficile da spiegare è l'atteggiamento di Pierluigi Bersani, un leader che aveva fatto del pragmatismo il suo punto di forza. Crede davvero Bersani di poter far emergere da un bagno di folla quel filo strategico che oggi si fatica a intravedere? E pensano sul serio lui e i dirigenti a lui più vicini di poter riproporre all'infinito la formula vuota e generica del governo di cambiamento, come se l'insistenza sull'attributo del cambiamento bastasse a surrogare l'insussistenza del sostantivo governo, ovvero un governo capace di ottenere la fiducia della maggioranza di entrambe le camere, come è del dettato della Costituzione, nella logica di un sistema parlamentare. Ecco, questo era Giovanni Sabatucci sul Messaggero, un articolo molto, molto drastico sul fatto che il partiti dovrebbero prendersi le loro responsabilità e non protestare in fondo, perché protestare in questa fase sembra che protestino contro se stessi. E perché il problema italiano lo mette in luce molto bene Mario De Ario sulla Stampa, in cui il titolo principale è Napolitano, elogio delle larghe intese, critiche ai grillini, ma Mario De Ario firma un editoriale in cui si parla di crisi economica, in cui si dice semplicismo una malattia italiana. Il trascinarsi della crisi politica e l'aggravarsi della crisi economica sembrano andare di pari passo con la banalizzazione delle posizioni sull'economia. Un numero sempre maggiore di persone pensa infatti che la crisi si possa risolvere con facilità. E ancora Mario De Ario: la convinzione che tutto sia facile è una grave malattia che si potrebbe definire semplicismo. I semplicisti, in questa categoria bisogna includere anche buona parte della classe politica, pensano che per invertire la congiuntura negativa, far ripartire la crescita, risanare le finanze pubbliche, sia sufficiente qualche piccolo provvedimento da scegliere a piacere tra i seguenti, tutti lodevoli di per sé: ridurre le imposte, colpire gli evasori fiscali, pagare i debiti delle amministrazioni pubbliche verso le imprese, ridurre i costi della politica. Il semplicista, e ancora Mario De Ario sulla Stampa, ritiene che se si adottassero le misure, una delle misure da lui preferita, il meccanismo economico italiano si rimetterebbe in moto come per incanto e l'economia rifiorerebbe. Ma ancora Mario De Ario, più avanti nel suo articolo, scrive: il semplicismo comporta due effetti collaterali piuttosto seri. Il primo è la convinzione che i problemi in realtà non esistono, sono soltanto il risultato di montature mediatiche, oppure che sono comunque lievi, complicati dalla cattiva volontà dei politici. La crisi non c'è, guardate i ristoranti sempre pieni, disse non più tardi di 2 anni fa l'allora Presidente del Consiglio, trascurando tra l'altro che al ristorante la gente per spendere meno riduceva il numero delle portate. Chi ricorda la ventennale mancanza di crescita dell'Italia, sintomo di declino del paese, che viene spesso guardato con sospetto? Fino a poco tempo fa lo si definiva sfascista e gli si rimproverava di credere troppo alle statistiche e non vedere i successi mondiali del calcio e del Made in Italy. Il secondo effetto collaterale, concludo questa lettura dell'articolo di Mario De Ario, consiste nel credere che le soluzioni semplici possono essere meglio adottate da un leader che prende in mano la situazione, forse un riflesso del mussoliniano uomo della provvidenza. In tempi brevissimi questo leader potrebbe uscire dall'euro, tagliare gli sprechi, vendere beni pubblici. Ci si dimentica che all'euro l'Italia è legata da un trattato internazionale, che tagliare gli sprechi significa in ogni caso tagliare posti di lavoro e che occorre contemporaneamente incrementare direttamente le spese produttive se si vogliono evitare effetti recessivi e che la vendita dei beni pubblici deve seguire, nella stragrande maggioranza dei casi, una disperante procedura giuridica che può durare diversi anni. Ecco, questa è l'analisi di Mario De Ario contro il semplicismo, un semplicismo che si diffonde forse proporzionalmente all'aggravarsi dei problemi. Più i problemi sono gravi, più si pensa che sia facile risolverli, ma se non si affrontano, se non si comincia ad affrontarli poco per volta, non si va da nessuna parte, come purtroppo l'Italia sta facendo adesso in questo tunnel della politica. 24 mattino. Eccoci ancora a voi per quest'ultima parte della lettura dei giornali, che, come vi dicevo, danno grande spazio alla morte di Margaret Thatcher, all'appello di Napolitano alle intese, ricordando appunto i precedenti del 76, danno spazio anche al problema appunto dei debiti della pubblica amministrazione. Per esempio c'è un commento di Giuseppe Turani: debiti, troppa burocrazia, su Il Giorno, e Turani dice che bisogna semplificare questo meccanismo tenendo conto del fatto che siamo di fronte a medie e piccole imprese che non hanno affari legali in grado di accompagnare la pratica e di seguirla fino a mettere le mani sul malloppo, senza mai dimenticare, ancora Giuseppe Turani sul Giorno, che nelle nostre disgraziate condizioni questo intervento non è solo giusto e riparatore di uno scandalo, lo Stato che non paga, ma anche un intervento congiunturale che forse può anticipare di qualche mese l'avvio della ripresa. Ci sono tutte le ragioni, insomma, per fare presto e bene. Allora forse vale la pena di fare un altro sforzo nella direzione della semplicità e della rapidità. Il commento di Turani: troppa burocrazia sul Giorno. Ma saluto il dottor Meazza, buongiorno. Buongiorno a tutti. E del caporedattore del Sole 24 Ore, che dedica largo spazio al tema dei pagamenti, mi sembra, oggi. Sì, molto, molto spazio, è il nostro taglio centrale, cioè il nostro titolo centrale di prima pagina. con diciamo la vocazione all'analisi che contraddistingue la testata, intanto precisiamo che da 40 miliardi siamo passati a 38,7. Magari la riduzione sembra poco, ma 1,3 miliardi di euro non sono esattamente qualcosa di trascurabile. E proprio per legarmi a quello che dicevi tu, c'è anche la segnalazione di una procedura particolarmente farraginosa nella erogazione da parte delle regioni. Di fatto dovranno varare delle mini finanziarie, spieghiamo all'interno, nelle nostre pagine, nei nostri servizi, e questo sicuramente allungherà i tempi. La buona notizia è che da oggi dovrebbe partire l'erogazione almeno di una parte dei pagamenti dei comuni, che hanno avuto questa sorta di liberatoria per una quota, i comuni che hanno liquidità possono cominciare a pagare. Ecco, ricordo che il Sole 24 Ore ha come titolo principale "Le imprese non ce la fanno più", un appello delle imprese. Ieri soprattutto la Lombardia ha avuto un incontro tra i responsabili appunto delle associazioni industriali della Lombardia. C'è un articolo di Alberto Quadriocuzzo, "Scacco la crisi in 5 mosse, le 5 mosse sono essenzialmente un ricontrattare con la UE gli obblighi italiani, cercare di attuare un piano per recuperare la disoccupazione giovanile, rilanciare gli investimenti e attuare anche qui degli interventi drastici sul mezzogiorno e, conclude Claudio Curzio, bisogna semplificare la burocrazia delegando una serie di adempimenti attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietà alle associazioni di impresa, agli ordini professionali e alle camere di commercio, altrimenti inefficaci complicazioni democratico-burocratiche soffocheranno l'Italia". Ma non ci sono solo dei dati negativi, l'Italia è anche un'Italia che si muove, dimostrazione il Salone del Mobile che si apre in questi giorni a Milano, in cui Meazza, il Sole 24 Ore dedica, a cui il Sole 24 Ore dedica un rapporto. Sì, abbiamo questo rapporto dedicato all'industria del design, abbiamo voluto qui dare un segnale positivo. Certo, hai ragione, la nostra prima pagina effettivamente con l'appello delle imprese, specialmente le piccole, è una prima pagina che segnala una volta di più le difficoltà dell'economia, le difficoltà che stiamo attraversando anche dal punto di vista dell'occupazione, l'abbiamo visto in questi ultimi 2 giorni, ma dal Salone del Mobile speriamo, ci attendiamo tutti qualche segnale, diciamo il Made in Italy rialza la testa, è stato un messaggio di ottimismo che abbiamo cercato di dare. E anche nell'ottica insomma di fornire informazioni sempre più aggiornate, sai che da oggi abbiamo anche per gli abbonati digitali questa business class, cioè questa possibilità di avere già alle 6 del mattino non solo la nostra edizione del quotidiano digitale, ma anche le notizie dai mercati asiatici, dai mercati americani, e quindi essere più informati, avere più informazioni per cercare di cogliere appunto i segnali positivi non solo italiani ma anche dal resto del mondo. Grazie a Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore, per queste anticipazioni, poi il giornale è attualmente in edicola, ma anticipazioni su quanto fa il Sole 24 Ore anche a livello digitale. Ma vorrei concludere questa rassegna stampa citando un articolo del Il Giornale, dove Paolo Guzzanti affronta il tema della cultura e afferma perché la rivincita del centrodestra passa dalla cultura, ed è un tema secondo me molto, molto importante. Si parla molto di economia, di numeri, di dati di fatto, di società, ed è giusto parlarne, ma non bisogna dimenticare anche che la società devono avere un'anima. L'associazione culturale dell'Italia, scrive Paolo Guzzanti, rispetto al resto del mondo è oggi molto più deprimente, persino di quella economica. La cultura egemone non è più, se mai lo è stata, capace di produrre eccellenza a livello mondiale nella letteratura, nelle arti visive, nel cinema, nel teatro, pur con isolate eccezioni. Le eccezioni si registra ancora un certo primato italiano nella musica classica moderna. Abbiamo seppellito da poco con commozione Enzo Iannacci dopo Lucio Dalla, e nella grande musica Riccardo Muti è l'artista più prestigioso e famoso. Io spero ancora che l'Italia liberale possa avere una nuova occasione quando sarà stata risolta la situazione demenziale in cui ci troviamo in politica, e spero che questo incredibile nostro paese, che contiene il 70% delle vestigia culturali dell'umanità ma che non è una potenza culturale viva e vitale, possa finalmente riconoscersi in uno specchio non deformante. Un uomo come Muti al Quirinale darebbe il segno del cambiamento. Dunque, perché no? Ripartiamo da Muti. Questo è l'appello di Paolo Guzzanti sul Giornale. Ripartiamo dalla cultura, ripartiamo dal bello, dalla capacità di appunto di apprezzare, di far conoscere al mondo il bello italiano, e questo anche nel Salone del Mobile, come abbiamo parlato poco fa. Ripartiamo dal bello, ripartiamo anche dall'affrontare con costruttività i problemi, e quello che cerchiamo di fare. Ringraziamo ringraziando Peter Bescapè in regia, Carmelo Lauricella in redazione e in assistenza. L'appuntamento è tra poco dopo il GR. Ventiquattro mattino. La politica nel tunnel. Bentornati a Gianfranco Fabi, il nostro appuntamento di approfondimento. Oggi parliamo di un tema drammatico per molte persone, quello dell'occupazione, della disoccupazione, della mancanza di lavoro. Ieri sono arrivati i dati su tutti i giornali, c'erano i dati sui licenziamenti, l'emergenza sui licenziamenti, 1 milione del 2012. Buongiorno Raffaele Bonanni. Buongiorno. Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, un grande sindacato, un grande sindacalista, di fronte a temi drammatici, temi purtroppo attesi. Il sindacato si aspettava queste cifre, Bonanni? Ma in verità sì, perché è chiaro che l'incustodia dell'economia da diverso tempo avrebbe portato a una maggiore disoccupazione. Questo abbiamo sottolineato da diverso tempo. Abbiamo chiesto di occuparci dei problemi dell'economia e dei problemi che riguardano i fattori dello sviluppo territoriali, che sono quelli che fanno la differenza. Dalla serie ha voglia di lavorare di più in azienda quando intorno all'azienda tutti i fattori, dall'energia alle infrastrutture, alle tasse locali e nazionali, alla giustizia, alle amministrazioni, ai servizi, vanno male. Quindi questi fattori purtroppo sono ingovernati da molti anni da governi nazionali e locali, e questo naturalmente ha portato dei guai, appesantiti moltissimo anche dal debito fortissimo e dalla diffidenza dei mercati. Insomma, qui non investe più nessuno, e chi ha investito magari spesse volte è tentato di esportare appunto i propri impianti, cioè delocalizzarsi. Questo è il punto e i nodi sono venuti al pettine, ecco perché bisogna reagire. Ecco, ma in questa prospettiva il sindacato non si sente un po' impotente di fronte a questa situazione? I problemi non nascono all'interno delle imprese, nascono soprattutto di fuori, come ha sottolineato. Ma cosa può fare il sindacato? Cosa sta pensando di fare il sindacato in questa prospettiva? Finora abbiamo tentato di tamponare l'emorragia, abbiamo fatto buoni accordi con le aziende per fortificare la produttività interna, abbiamo gestito alla meno peggio queste storie, e poi magari per ulteriormente bloccare appunto gli effetti delle difficoltà che dicevo, abbiamo lavorato con gli ammortizzatori. Però a questo punto della storia sono 5-4 anni e più che siamo in una crisi pestifera. Le prospettive non si vedono, la politica ci mette di suo perché non dà un governo, e quindi l'economia è senza timone, e quindi la incredulibilità dei mercati è ancora più forte nei confronti dei nostri interessi, del nostro paese. E a questo punto occorre una svolta. Noi, ripeto, possiamo fare tutto quello che si può fare, come abbiamo fatto finora insieme agli imprenditori, però ci sono cose che sfuggono al nostro controllo. Ecco perché io penso che lavoratori e imprenditori oggi devono assicurare una direzione al paese, devono indicare alla politica la scelta di governare il paese, di governare l'economia, di fare il loro dovere. D'altronde sono stati eletti per fare questo. Ecco, in questa prospettiva il sindacato, in particolare la CISL, aveva annunciato, fatto intravedere nelle scorse settimane un'ipotesi di proposta di riforma costituzionale, di intervento ad ampio respiro. Concretamente si sta realizzando qualcosa in questa direzione? Ma noi da una parte chiediamo che ci sia una riduzione fortissima delle tasse per lavoratori e pensionati che sono schiacciati da questo peso e non spendono, e non spendendo le aziende non producono, e le aziende non producendo i lavoratori sono licenziati o sono in cassa integrazione, e le aziende stesse sono in difficoltà, e lo stesso erario pubblico incamera meno soldi. Paradossalmente può sembrare una contraddizione, ma minori tasse presso l'erario si trasformano in maggiore tasse per l'erario pubblico. e maggiori tasse invece fa diventare così rarefatta la situazione economica, appunto tale da sembrare nominalmente di ottenere più tasse dai cittadini, ma a quel punto strozzandoli non si tira fuori più un centesimo, ed è quello che sta accadendo. Questo è un punto importante per la nostra economia. Dall'altra però la vicenda delle tasse è collegatissima con la spesa pubblica. Noi non siamo convinti affatto che l'impianto istituzionale e amministrativo oggi ridondante possa fare al caso nostro. Le tasse alte si giustifichino solo attraverso un assorbimento fortissimo di queste da parte di istituzioni e amministrazioni che non hanno un precedente né in Europa né in altri paesi concorrenti dell'Italia. E questo non solo brucia risorse, brucia tasse, ma brucia anche risorse perché c'è un affollamento di poteri che si contrastano tra di loro nel realizzare il blocco che abbiamo sotto gli occhi di tutti. E noi, alcuni di noi, hanno firmato un manifesto insieme a alcuni politici come Violante, come Quagliarello, come altri accademici, chiediamo altri ancora di aderire anche all'imprenditore e così via. Dobbiamo indicare la strada, l'unica strada, che è quella di ridurre queste regioni a quello che la Costituzione stessa ha affidato loro, non certo di diventare stati nello Stato, ma di svolgere alcune funzioni in autonomia, certamente, ma non un'autonomia litigiosa con lo Stato stesso, un'autonomia armonica con altri poteri statali, appunto, europei, e pezzature di regione, certamente non di grandezza piccola e media come almeno più della metà delle regioni italiane sono, perché non ce la fanno a realizzare quell'economia di scala che è fonte di riduzione delle spese e di efficienza. Le province, è inutile dirlo, non hanno alcuna altra funzione che moltiplicare la provincializzazione di molte istituzioni e di molti servizi. I comuni devono consorziarsi e molte baracche che loro chiamano aziende in house e così via, devono uscire fuori dal controllo delle stesse amministrazioni, e molte istituzioni nazionali devono essere più essenziali, se non addirittura tagliati. Questa è la proposta che noi facciamo in un disegno armonico che non deve vedere più il disordine che abbiamo visto nell'ultimo ventennio, frutto solo dell'opportunismo delle forze politiche che, pur di trovare l'accordo tra di loro, barattavano poteri che poi non avevano alcuna armonia e alcuna capacità poi di produrre ciò che si annunciava. Questo è un punto importante: rifar risparmiare aumenta la governabilità, ma soprattutto limita la corruzione, perché poteri così diffusi e non armonici hanno solamente favorito la corruzione. Ecco, indubbiamente un progetto ampio, sicuramente anche un po' ambizioso, Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Ecco, abbiamo anche in linea Walter Passerini, giornalista economico, collaboratore della Stampa, grande esperto di problemi del lavoro. Buongiorno Passerini. Buongiorno, ben ritrovati. E Vito Gioia, presidente e amministratore delegato di AROP, una società di cacciatori di teste. Buongiorno Gioia. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, dato che Raffaele Bonanni deve lasciarci tra pochi minuti, io chiederei a Passerini e a Gioia di fare una domanda loro, al rappresentante, a uno dei più autorevoli rappresentanti del sindacato. Walter Passerini. Ma io volevo chiedere a Bonanni dov'è finita la Big Society, cioè quel modello che evidentemente non è nato nel nostro paese ma è nato altrove, e che dice che in fondo il rapporto delle organizzazioni sociali con la politica deve essere un rapporto paritario. Mi pare che in questa crisi le organizzazioni sociali, in particolare sindacati e imprese, siano in qualche modo subalterne a una politica incapace di autoriformarsi. Allora, più forza alla società per condizionare la politica, però Bonanni, non mi pare che siamo a questo punto in Italia. Raffaele Bonanni. Ma io sono molto d'accordo con ciò che dice Passerini, tant'è che sostengo che le forze sociali devono superare una malattia che hanno da diverso tempo, una tale ideologizzazione delle loro opinioni da rendere incompatibile la propria opinione con gli altri partner, e questo non va bene, perché è chiaro che una frammentazione non favorisce appunto la costruzione di quella big society, che è l'unica condizione per costruire un equilibrio che spinge anche la politica magari a avere più virtù, e l'equilibrio appunto democratico tra diverse realtà di rappresentanza che può creare appunto quell'equilibrio. E lo squilibrio è evidente perché ci sono tante realtà culturali, nel sociale, nell'economia, che fanno sistema al di fuori dei loro compiti sociali, economici e così via, ma giocano di supporto direttamente verso la politica. Noi non possiamo consentirci questo in tempi ordinari, oggi addirittura questo è letale. Ecco perché sono d'accordo molto con Passerini, ecco perché io ritengo che nello stesso sindacato si debba aprire una discussione chiara. Il pluralismo sindacale è importante, alla condizione però che sappia coniugarsi e che sappia appunto rispettarsi al punto tale da essere una realtà davvero molto molto rappresentativa. Credo che quello che valga per noi vale pure per gli altri soggetti che debbono e possono cooperare col sindacato stesso. E questo è importante. Sabato c'è una grande iniziativa di Confindustria a Torino per la piccola e media azienda. Io vi sarò presente, sarà presente anche il segretario della CGIL e della UIL. Io spero, per quel che mi riguarda, chiederò appunto a Confindustria di aprire una discussione fortissima tra noi e loro per indicare tre questioni essenziali per il governo del paese, partendo naturalmente dalle richieste che il sociale e l'economia devono assolutamente porre all'attenzione di tutti. Insomma, dobbiamo scendere in campo da par nostro, appunto da pari di realtà che rappresentano i lavoratori e le imprese, che stanno soffrendo moltissimo da mali antichi mai curati e da prospettive future assai più fosche, se non ci dovesse essere un governo dell'economia italiana, della vicenda italiana, che sta davvero impaurendo tutti i nostri partners europei e extraeuropei. Certamente, si tratta di fare cose concrete. Fermo Bonanni, abbiamo pochi minuti. Rapidamente, Vito Gioia, una domanda da un cacciatore di teste a un sindacalista. Ma vorrei provocare Bonanni sul tema della flessibilità, perché quando si parla di flessibilità, spesso a sproposito si parla sempre di licenziamenti, che è un'accezione molto negativa. Io mi riferisco invece alla flessibilità delle persone e quindi dei sindacati che rappresentano le persone. E intendo flessibilità in entrata nel mondo del lavoro, flessibilità durante il rapporto di lavoro che riguarda la mobilità, il mansionamento, eccetera, e flessibilità in uscita. Cosa pensa il sindacato della flessibilità delle persone? Raffaele Bonanni. Ma io penso che tutto ciò che si contratta, e quindi quando la flessibilità è contrattata, è una possibilità importante per chiunque, per il lavoratore e per l'azienda. Quello che ho pensato sempre io sulle vicende della flessibilità è che la flessibilità italiana è negativa per il solo fatto che chi è flessibile è poco pagato e chi non è flessibile è pagato in più, e questa è una contraddizione gravissima, perché porta non solo a non remunerare sacrifici in più che fanno coloro che sono flessibili, ma anche a penalizzarli, perché si sa che le prestazioni che si hanno di malattia, di maternità, previdenziali, di formazione e tutte le cose che servono appunto a un lavoratore per mantenersi vengono da una buona retribuzione. Se c'è una bassa retribuzione non si hanno neanche prestazioni, quindi il problema vero è questo, è questo. E qui ci sono rigidità fortissime dentro il sindacato, ma anche dentro l'impresa, e su questo bisogna fare passi in avanti. Io lo dico, il mio comportamento anche personale è stato sempre ricercare possibilità di contrattazione di questi elementi in modo tale da rendere più vera la discussione. Io so che le flessibilità sono importanti, ma so che oggi non sono pagate, anzi sono mortificate. Questo è il punto centrale: pagare di più chi è più flessibile, pagare di meno chi è meno flessibile. Grazie Raffaele Bonanni, lo ringraziamo per queste parole, anche per aver promesso di intervenire per sbloccare anche le rigidità che ha ammesso nello stesso sindacato. 24 mattino. Eccoci ancora a voi, stiamo parlando di occupazione, di lavoro, di politiche per il lavoro. Abbiamo avuto nella prima parte Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Ecco, dai messaggi che sono arrivati al nostro 349-238-6666, devo dire che non c'è molto entusiasmo con quello che ha detto Bonanni, sono più le critiche, tante parole, le solite cose. Vogliamo sapere che cosa concretamente si può fare, i politici dicono sempre le stesse cose, fanno tante promesse, poi ci sono anche, c'è anche qualche improperio, ma di questo non voglio riferirvi, perché non amo la volgarità. Ecco, basta chiacchiere, vogliamo i fatti. Questi sono un po' i commenti dei nostri ascoltatori. Potete anche chiamare l'800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, ce ne sono già un paio in attesa. Ma volevo sapere da Walter Passerini, giornalista economico della Stampa, esperto di del lavoro, e da Vito Gioia, presidente del gruppo Arap, società di cacciatori di teste, che cosa concretamente, Passerini l'ha spiegato ieri sulla Stampa, che cosa concretamente il sindacato anche può fare in questa fase di difficoltà. Passerini. Ma io ho sintetizzato, anche per ragione di comunicazione, in tre punti: un'agenda minima necessaria e soprattutto urgente, perché qui si sta perdendo tempo, cioè la premessa è che il paese è fermo da novembre in una campagna elettorale che non ha dato esiti, come dire, di governabilità, e quindi rischiamo di perdere altri mesi preziosissimi. Nel frattempo i fatti di Civitanova Marche potrebbero addirittura aumentare. Ma torno ai tre punti. Il primo punto è, c'è una cosa davvero seria, che è quella dell'eccessivo costo del lavoro, cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni. Ecco, su questa partita l'intervento deve essere molto rapido. Sappiamo che c'è un'eccessiva differenza tra quello che paga un'impresa e quello che percepisce in busta paga un lavoratore. Su questo noi dobbiamo intervenire anche attraverso degli incentivi premiali in più per quelle imprese che, nonostante le difficoltà, assumono attraverso il credito d'imposta, assumono donne e giovani in modo particolare. Il secondo punto è quello della creazione della rete dei servizi all'impiego pubblici e privati, cioè metodi professionali per governare i flussi occupazionali, i fabbisogni formativi e occupazionali. Io ho appena pubblicato uno studio che ci dice che in Italia ancora più di 6 persone su 10 trovano il loro lavoro o cambiano lavoro attraverso la rete di amici e conoscenti, e questo è un modello da paese molto molto archeologicamente legato a un passato che non c'è più. Terza questione, l'agenda, diciamo, del nuovo sviluppo. Ecco, su questo davvero la fumosità è elevatissima, non solo nel sindacato ma anche nelle imprese, perché se le imprese avessero la forza o quantomeno la determinazione di imporre un'agenda del nuovo sviluppo, ecco, io credo che questo, magari questo incontro di Torino di fine settimana, potrà aiutarci, perché davvero bisogna uscire dal vago, cioè quali sono i nuovi settori su cui vogliamo puntare nei prossimi 5-10 anni. Ecco, di questo non si parla. Si balbettano alcuni settori che potrebbero essere importanti. Oggi parte il salone del mobile, certo. Allora si dice, allora abbiamo il design, il mobile, il nostro fiore all'occhiello, eccetera, ma non c'è un'agenda dello sviluppo. Ecco, un'agenda minima che individui 5-7 direttrici su cui puntare, quindi ricevere incentivi da parte dello Stato e del pubblico, ricevere anche aiuti da parte della comunità europea, la nuova ripresa che deve avvenire su settori vecchi, rinnovati e nuovi. Ecco, qui su questo buio e nebbia pesante. Purtroppo sì, ecco, a proposito di occupazione femminile, vi ricordo che alle 12 Deborah Rosciani nel suo Salvadanaio parlerà questa mattina proprio di lavoro alle donne, più lavoro alle donne. Volevo sentire Vito Gioia, cacciatore di teste, mi sembra che uno dei suoi slogan sia il lavoro c'è per chi lo sa accettare, per chi lo vuole, per chi lo cerca veramente. Anche in questa fase, Vito Gioia? Ma io, se permettete, vorrei leggere una frase, non so chi l'abbia scritta, ma è molto significativa. Questa frase dice che il buon Dio ha lasciato un vermicello per ognuno, però non fa consegna a domicilio, bisogna cercarlo. E quindi se hai fame bisogna uscire dal proprio nido e darsi da fare per trovarlo. Quindi la mia domanda è soprattutto rivolta ai giovani: abbiamo abbastanza fame o siamo così protetti da non preoccuparci abbastanza per trovare un lavoro che c'è. Perché purtroppo c'è una discordanza tra quello che impariamo all'università o ai master e la realtà del mercato del lavoro. Quindi in aggiunta a tutto quello che diceva Walter Passerini, io direi che i sindacati, se volessero far bene il proprio lavoro, forse dovrebbero occuparsi delle persone ancor prima che inizino a lavorare. E questa è importante, una parte osservazione. Cioè, aiutando le persone a capire che tipo di scelte fare e con quale flessibilità. Io insisto sul termine flessibilità delle persone, non è un problema di norme o di leggi che risolve il problema. Sindacati, flessibilità durante il rapporto di lavoro, cioè quando assistiamo, non so se voi siete mai capitati al tribunale dove si fanno le cause di lavoro, ci sono centinaia di persone e di giudici che perdono tempo a discutere di cose totalmente inutili o inventate, che riguardano i ruoli, le mansioni, il demansionamento. Ecco, i sindacati dovrebbero aiutare i lavoratori a capire che cosa cerca il mercato del lavoro e essere molto più flessibili. Quando c'è un demansionamento, probabilmente è perché l'azienda è costretta a farlo. Quando c'è una riduzione dell'orario di lavoro è perché l'azienda non può pagare gli stipendi probabilmente. Quindi il sindacato dovrebbe aiutare in termini di flessibilità e soprattutto in uscita per le persone che hanno superato una certa età, aiutarle a capire cosa possono fare dopo. Ci sono delle soluzioni che oggi chiamano outplacement, ci sono delle soluzioni che riguardano il mondo no profit, mettersi in proprio. Secondo me questo dovrebbe essere il ruolo del sindacato, piuttosto che continuare a difendere delle posizioni indifendibili. Ecco, sentiamo qualche ascoltatore. Patrizia dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, volevo solo fare due o tre domande ai vostri ospiti, poi dopo ascolto per radio. Io ho un figlio che ha studiato a Venezia architettura, ha lavorato e studiato per 10 anni, poi ha fatto il tirocinio, poi l'hanno preso come collaboratore per un anno e mezzo mai pagato, e poi nessun studio lo prende a lavorare se vuole essere pagato. Ha già fatto gli esami di Stato 2 o 3 volte, ha detto che forse è diventato stupido tutto in una volta, tutte le volte paghiamo per fare questi esami di Stato, però non se ne viene mai fuori, come mai? E poi un'altra cosa, come mai mio figlio ha già 33 anni, come mai nessuno parla di sti giovani, tutti da 25 ai 30 anni, gli altri che fanno? Grazie, vi ascolto per altro. Grazie mille, Claudio da Padova. Buongiorno. Buongiorno. Io sto andando al lavoro. Ho un'azienda e artigiana del Veneto. Ringrazio intanto i miei collaboratori, i miei decine di collaboratori. Comunque, al giorno d'oggi bisognerebbe trovare i giovani un po' più disponibili, perché tappezzieri non ce ne sono, falegnami non ce ne sono, sarti non ce ne sono, tappezzerie parietali non ce ne sono. Tutti i lavori artigiani che ci sono, io ho 2 anni e mezzo che vado in cerca di persone e non, i giovani non ci sono. Grazie mille per questa testimonianza che conferma appunto il lavoro c'è, certamente non sono lavori intellettuali, non sono lavori, sono lavori che ogni tanto bisogna anche sporcarsi le mani, il lavoro ci può essere, possono essere anche lavori di passaggio, però in questa fase indubbiamente è importante anche non avere una prospettiva unicamente negativa. 24 mattino. Eccoci per l'ultima parte di 24 mattina, stiamo parlando di occupazione, stiamo parlando di lavoro, un tema sicuramente drammatico, un tema caldo, lo dimostrano i molti messaggi che ci state inviando, lo dimostrano le telefonate che state cercando di fare al 800 24 00 24. Ecco, messaggi molto drastici che ci ricordano appunto la situazione molto pesante, le aziende che chiudono. Voglio di questi giorni un ascoltatore ci ricorda l'Unilever che delocalizza in Olanda e in Gran Bretagna, cioè che riporta delle sedi centrali quella che era la sede di Milano, che a molte persone, a molti lavoratori è stato, anzi a quasi tutti i lavoratori di questa grande impresa è stato chiesto di o trasferirsi in Olanda o in Gran Bretagna oppure di appunto rinunciare al proprio lavoro, e quindi praticamente sono stati licenziati. Certamente ci sono casi drammatici, siamo in una situazione difficile in cui ci sono anche ovviamente 1 milione di licenziamenti, ci sono anche delle assunzioni da parte delle imprese, c'è una dinamica del mercato del lavoro che continua, ma la situazione è indubbiamente pesante soprattutto anche da un punto di vista personale, da chi la vive direttamente questa situazione. Liliana da Belluno, buongiorno. Buongiorno a tutti. io ho sentito il discorso di Bonanni e ho dovuto intervenire per forza, perché io voglio portare la mia esperienza. Io sono disoccupata, ho 50 anni, cerco disperatamente lavoro, al contrario di quello che ha detto il signor Gioia, che il lavoro c'è e non si trova. Io sto cercando di tutto, persino a far pulizia, non trovo neanche quello. Per quanto riguarda mio marito, in cassa integrazione in deroga da 4 anni nella regione Friuli Venezia Giulia viene concessa di 3 mesi in 3 mesi questa cassa integrazione in deroga con la complicità dei sindacati. Vengono lasciati a casa le persone con maggiore anzianità di servizio perché costano, e l'azienda sta lavorando sotto gli occhi di tutti, con lavoratori a voucher, con contratti a chiamata, con nuove assunzioni. Questa è la realtà che stiamo vivendo in questo momento. Si può affrontare la crisi in questo modo? Si deve affrontare la crisi in questo modo, indubbiamente. Si deve affrontare una crisi che è personale, si deve chiedere alla politica di avere responsabilità e di fare qualcosa in questa situazione. La ringrazio molto per questa testimonianza diretta. Erika da Roma. Buongiorno, volevo portare la mia testimonianza di com'è il vissuto di una persona che comunque è inserita nel mondo di lavoro e ha avuto, diciamo, occasione di fare esperienze sia lavorando in aziende italiane che in aziende straniere americane in Italia e all'estero. E, diciamo, quello che è stato detto prima, sia da Bonanni, il sindacato, sia gli altri ospiti che avete avuto oggi, è tutto corretto. Soprattutto mi è piaciuto l'intervento, cioè Bonanni praticamente fa un intervento molto didattico, tra virgolette, perché ovviamente sono parametri economici e è ovvio che i sistemi economici funzionano con delle variabili e dei parametri che vanno governati, e quindi quello, diciamo, è un concetto di macroeconomia. Poi c'è praticamente il sistema più concreto, che è quello delle industrie, delle imprese, che vanno giustamente, come è stato detto nel precedente intervento, formate, va fatto imprenditorialità, va fatta formazione e tutta una serie praticamente di innalzamento della qualità manageriale soprattutto. Grazie mille, grazie per questa intervista. Abbiamo pochissimo tempo, mi spiace. Comunque grazie, mi sembrano osservazioni molto interessanti. Antonella da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica, sì. Sì, io volevo dire questo, guarda, sono una piccola imprenditrice di Parma. Le spiego, il momento attuale è tutto in sospensione e c'è una situazione di stasi totale, la gente ha paura di qualsiasi cosa e niente si muove, questa è una cosa veramente devastante. Le dico la mia esperienza di 17 anni di attività in proprio, non ho mai vissuto una situazione di totale difficoltà e indifferenza da parte delle persone. Io temo che per noi ci vorrebbe una Margaret Thatcher, ma proprio inglese, non italiana. E non ce l'abbiamo sotto mano, purtroppo. Lo so, purtroppo bisogna trovarla però, perché sennò non risolviamo i problemi con gli italiani, non lo risolviamo. Ecco, grazie mille, grazie. Mi sembra questa una testimonianza con cui concludere le testimonianze degli ascoltatori, perché proprio dimostra che questo paese ha bisogno di una scossa, ha bisogno di muovere qualcosa, perché la stasi, perché il dibattito, perché le vecchie liturgie della politica non devono avere più luogo, non devono avere più senso. Dobbiamo muovere qualcosa in questo paese perché si prenda coscienza, si prenda responsabilità. Si è usata spesso la parola responsabilità in questi giorni, ma la responsabilità mi sembra non ci sia, si fa avanti ancora con i vecchi modi, con le vecchie liturgie, come stiamo vedendo, con tutte queste tattiche e pretattiche che si stanno svolgendo per le prossime elezioni del Quirinale. In 2 minuti Walter Passerini e Vito Gioia, chiederei di concludere questo programma, non certo cercando delle soluzioni facili o dando delle prospettive che non ci sono, e non certo magari appunto guardando a una realtà impossibile, però bisogna fare alcuni passi concreti per smuovere questa situazione. Walter Passerini. Sì, io punterei sul recupero di fiducia, perché è vero che ci sia stato un milione di licenziamenti nel 2012, ma è anche vero che ci sono stati quasi 11 milioni di avviamenti al lavoro. Quindi l'idea di un mercato del lavoro statico è un'idea sbagliata, il mercato del lavoro è in movimento. Il problema è che il movimento è selvaggio, il movimento non è governato, questo è il punto. E il secondo elemento è quello di partire sulle culture, bisogna davvero trasformare le culture del lavoro dipendente verso culture di lavoro intraprendente, aiutando l'intrapresa, le piccole imprese, il mettersi in proprio seriamente, non a parole, e partendo dagli stessi ragazzi, cioè dai giovani, facendo orientamento sulle persone, non paternalisticamente, ma strutturando l'orientamento quasi come una materia scolastica al pari delle altre. Grazie Passerini. Vito Gioia. Volevo un attimo correggermi con la signora Liliana da Belluno. Ovviamente io parlavo dei giovani che non devono stare con le mani in mano, il suo caso ovviamente è molto più complicato. Quello che volevo dire anche alla mamma che ha il figlio architetto che continua a studiare, che a un certo punto bisogna smettere di studiare e andare a lavorare, trovare un qualsiasi lavoro purché sia onesto. Una volta entrati nel mondo del lavoro è molto più facile cambiare. Grazie mille. Per quanto riguarda le delocalizzazioni è un fenomeno che ha toccato anche i manager. Il consiglio è di muoversi, di rendersi disponibile e andare in Irlanda, in Olanda o a Singapore dove c'è lavoro. Purtroppo la realtà è questa, quindi bisogna muoversi. Grazie Vito Gioia, un po' provocatoriamente, indubbiamente, bisogna muoversi, bisogna accettare, bisogna rendersi conto di questa realtà, ma in realtà possiamo anche cambiarla, possiamo anche cambiarla, la politica deve cambiare, il sindacato deve cambiare, deve trovare delle soluzioni nuove ai problemi nuovi, non può arroccarsi ad affrontare con i vecchi sistemi, con le vecchie liturgie dei problemi che sono drammatici per le persone e ne abbiamo avuto la testimonianza con le telefonate, con i messaggi di oggi. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie ad Alessandro Longoni in redazione, a Peter Besca, Carmelo Lauricelli in regia, l'appuntamento è per domani. 24 mattino.